Friuli nel mondo, 158esima trasmissione dedicata agli emigrati, ricordando Augusto Cesare Seghizzi. Augusto Cesare Seghizzi ebbe infusa nel sangue la poesia della terra friulana. Sua madre era infatti udinese, mentre il padre, triestino, professava e molto egregiamente la musica. Dal padre, il figlio giovinetto derivò pertanto una naturale inclinazione per l'arte dei suoni. Dalla madre, una squisita e viva sensibilità verso tutto ciò che rappresentava ai suoi occhi il Friuli. A Gorizia, ove visse, attese con fervida passione all'esplicazione della sua attività professionale, insegnando musica e istruendo e dirigendo, fra l'altro, l'ex coro della Società Alpina Goriziana. Non vi fu manifestazione d'arte e di friulanità che non abbia avuto a capo il maestro Seghizzi. Per degnamente ricordare questa nobile figura, vogliamo oggi darvi un breve saggio della produzione artistica di Seghizzi. Eccovi il primo e il quarto dei cinque gruppi di Gotis di Rosade, Gocce di Rugiada, nei quali spicca il grande merito del maestro che seppe armonizzare con finissimo buon gusto e con una valentissima cesellatura di accordi vecchi motivi di villotte popolari. Nonché due delle sue composizioni dal titolo Non scherzà e Chantin, nelle quali si rivela la grande sensibilità dell'artista. I brani sono eseguiti dal coro polifonico di Ruda, diretto dal maestro Orlando Di Piazza. Domnul Floris Florin. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.